Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con la stampa periodica, le segnalazioni, i consigli che vi diamo dai settimanali, dai mensili italiani e non solo italiani. Beh, la notizia di questa settimana naturalmente è stata la scomparsa di Steve Jobs, il fondatore dell'Apple, per molti versi un'icona del nostro tempo, così è stato definito, e qualche settimanale ha provato a intercettare la cosa, ma naturalmente i tempi proprio di realizzazione, di trattamento della notizia hanno impedito che sulla maggioranza delle testate fosse presente questa notizia. È presente invece su un mensile, perché Wired è un mensile, come sapete, nel numero di ottobre ha scelto proprio di presentarsi con una copertina dedicata a Jobs. Chiaramente il mensile non può riportare, essendo stato lavorato in precedenza, la notizia della scomparsa, ma molti dei contenuti poi presentati dentro Wired sono proprio un po' pensati come una sorta di lascito di Jobs. Per Jobs spesso si è anche fatto ricorso a delle metafore un pochino blasfeme o quasi, e anche diciamo nel numero di Wired il titolo, l'introduzione viene intitolata Il Vangelo secondo Steve Jobs, perché appunto non era persona, diciamo così, che ammettesse probabilmente di essere molto contraddetto e sicuramente dotato di grande intuito. Questa introduzione di Stefano Pistolini, presentata su Wired, tra l'altro ci ricorda che a novembre uscirà Steve Jobs di Walter Isaacson, che è direttore dell'Aspen Institute, ed è la biografia autorizzata di Jobs, l'unica biografia autorizzata di Jobs, di cui lo stesso Jobs aveva preteso una riduzione dei tempi di lavorazione, probabilmente temendo anche un esito infausto più veloce della sua malattia. Tutto questo su Wired di questo mese, il mese di ottobre. Jobs naturalmente è un personaggio di cui si è scritto molto in questi giorni, si è parlato molto in questi ultimi giorni. Wired dice: ha trasformato vita, tecnologia e consumi degli ultimi 30 anni, così bravo a vendere le sue visioni che quando pronuncia la parola business, cioè affari, tutti sentono invece la parola amore. E a Jobs, tra l'altro, vi segnalo invece un'iniziativa particolare, non è proprio un magazine ma quasi, un ebook, cioè un libro elettronico che è stato realizzato invece dalla redazione del Sole 24 Ore, che è disponibile, che potete trovare sul sito del Sole 24 Ore già da venerdì, quindi in tempi record, con contributi originali, rassegna dei prodotti e una serie di appunto approfondimenti anche multimediali sul sito www.ilsole24ore.com, dedicato al visionario, al grande visionario Steve Jobs. E allora lasciamo la notizia, indubbiamente la notizia della settimana, cioè la scomparsa di Jobs. Veniamo invece a un amico, anche tra l'altro un collaboratore dell'inserto domenicale Sole 24 Ore, inserto culturale. Sto parlando di Stefano Bartezzaghi, enigmista figlio d'arte, va precisato, figlio di un re del cruciverbo, appunto Bartezzaghi è una firma notissima per tutti coloro che sono un po' appassionati di enigmistica, di cruciverba. Sta per presentare un nuovo libro che sarà appunto, come dire, sarà poi anche una rubrica che verrà ospitata dall'Espresso, e proprio l'Espresso dà qualche gustosa anticipazione di questo approccio di Bartezzaghi. E secondo Bartezzaghi, insomma, la lingua italiana non sta molto bene. Speriamo che l'amico Bartezzaghi non comprenda questa trasmissione nelle sue rilevazioni, o non la comprenda almeno come segnale di peggioramento della lingua italiana. Però Maria Simonetti riferisce sull'Espresso: turpiloquio, errori di grammatica, menù leziosi. In un libro Bartezzaghi processa l'italiano, che definisce ridicolo e inquinato. Dice tra l'altro c'è un primo consiglio fondamentale: bisognerebbe evitare il drink and dial e il drink and connect, cioè gli sms o i messaggi di posta elettronica che vengono digitati e spediti alle 2 di notte da ubriachi, per lo più al disgraziato di turno. La mattina dopo non ve ne ricordate nemmeno, scrive Maria Simonetti, ma come dicevano gli antichi, qui scripta manent, cioè quello che è stato scritto poi resta, anche se si tratta di cose solo su file, solo digitali. Sono gli inconvenienti della comunicazione al tempo di Facebook, quelli che il linguista Stefano Bartezzaghi mette al centro del suo acuto e spassoso saggio Come dire. Come dire, che va inteso non solo come l'abusato tormentone che si usa per prendere tempo nei momenti in cui non si sa cosa dire, ma anche proprio in senso letterale, cioè come dire, un galateo, un bon ton della parola. Secondo Bartezzaghi, prosegue la Simonetti, come nell'abbigliamento si è passati dal vestito della festa alla tuta in ogni occasione, anche nel linguaggio stiamo un po' scivolando in basso. Ad esempio, il tu fino a poco tempo fa era usato solo con i parenti, i bambini, gli amici intimi, il turpiloquio solo con amici intimi, mai con persone di sesso opposto, mentre adesso il tu è debordante, il turpiloquio è assurdo in Parlamento e anche le mamme con bebè dicono tranquillamente moltissime parolacce. Questa è la segnalazione. E c'è anche un gruppo che viene segnalato da Maria Simonetti, un gruppo su Facebook. Sapete che è possibile su questo social network creare proprio dei gruppi di persone che si riconoscono secondo un certo obiettivo. Questo gruppo si chiama Scartare corteggiatori e potenziali amanti per gli errori di grammatica. Quindi è piaciuto molto sia a me che ad Anita Panizza. Non so se poi Anita abbia deciso di iscriversi quando abbiamo visto questa segnalazione sull'Espresso, se abbia deciso di iscriversi a questo gruppo, ma effettivamente tra tutti i criteri che si possono immaginare per testare, per dir così, una persona, ecco, quella di vedere, di verificare la sua bravura, la sua correttezza grammaticale, davvero è uno dei più curiosi. Ma dice Bartezzaghi, ci sono persone che effettivamente dicono delle cose terribili, tipo ho un nuovo paglio di scarpe, oppure scrivono come stai, sempre lo stesso, purtroppo scritto L apostrofo o stesso, come se fosse quindi una sorta di maschile di o stessa. Ed è tutto, vi rimando poi all'Espresso, l'articolo di Maria Simonetti per la parte appunto di approfondimento su Bartezzaghi. Vorrei restare un attimo ancora sull'Espresso, perché mi fa segno Carmelo Lauricella, che questa mattina mi assiste in regia per questo numero di Magazine 24. Tra poco ci dovremo fermare un minuto o poco più per le informazioni sul traffico. Allora, c'è una segnalazione di Marco Scafati nelle ultime pagine proprio del settimanale, che segnala un'invenzione che si chiama sportelli a prova di bambino. Cioè qualcuno ha pensato, una casa automobilistica ha pensato che potrebbe essere utile avere un qualche cosa che impedisce, quando si apre la portiera, di andare a sbattere contro il muro o contro una macchina parcheggiata accanto. Mi rendo conto che rispetto ad altri problemi che possono presentarsi anche nella vita quotidiana non è poi gran cosa, però può essere un optional, come lo chiamano i venditori del caso automobilistico, un optional interessante. Hanno pensato appunto, escogitando, un sistema molto semplice per evitare graffi e ammaccature. Si chiama il sistema Door Edge Protector, consiste in un braccetto di plastica che esce automaticamente da una qualsiasi delle portiere dell'auto e rientra in un tempo record, 60 millisecondi, quando queste vengono aperte almeno per 15 centimetri. Ha un bordo di gomma, consente quindi di appoggiarsi contro un muro, contro un'altra macchina, contro un ostacolo, senza danni, e poi può essere naturalmente facilmente sostituito quando ormai è deteriorato. È un dispositivo di sicurezza, poi impedisce eventuali danneggiamenti. Tutto questo dovrebbe debuttare, posso anche darvi il nome della casa, non credo che a questo punto stiamo facendo grande pubblicità, sulla Focus, a partire dall'anno prossimo, ma lo segnala, ripeto, l'Espresso. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Adesso voglio parlarvi un attimo di libri, libri anche non proprio recentissimi, perché dal venerdì che è uscito con la Repubblica appunto 2 giorni fa, si segnala La fatica editoriale, i moribondi del Palazzo Carignano, e autore Ferdinando Petruccelli della Gattina. Allora, se come me non sapete, non ricordate chi fosse questo signore, vi posso dire che è stato uno dei primi parlamentari ed era un giornalista intellettuale, era nato a Moliterno in Lucania. Tra l'altro era anche apprezzato all'estero, in Francia e in Inghilterra, così riferisce Enrico Del Mercato sul Venerdì. Perché vi parlo di questo I moribondi del Palazzo Carignano? Perché era un libro anticasta, cioè molto in tono con le polemiche di questi mesi, di questi ultimi mesi, ultimi anni, diciamo contro certi privilegi della politica, questa politica distratta, questa politica che non sta a sentire, non si preoccupa dei problemi dei rappresentati. Ecco, il moribondi del Palazzo Carignano è proprio la storia, il resoconto che questo signore fece nel 1862 dopo appunto le prime esperienze in Parlamento. Adesso verrà rimandato in libreria in una nuova edizione. Per lui era un divertissement, raccontava un po' con una rubrica che aveva su un giornale di Parigi, aveva questa rubrica in cui Ferdinando Petruccelli raccontava un po' come andavano le cose. E che la vita pubblica, scrive proprio Enrico Del Mercato sul Venerdì, che la vita pubblica italiana sarebbe poi evoluta verso una certa distanza tra il popolo e i suoi rappresentanti, lo si poteva già cogliere dalla descrizione che proprio Petruccelli della Gattina fa del primo Parlamento. Componesi, scriveva, di 443 membri, ciò che, su una popolazione di circa 23 milioni di abitanti, dà quasi un deputato per 60.000 anime. Dopo aver passato in rassegna i titoli, vi sono due principi, tre duchi, 29 conti, 23 marchesi, le professioni, ci sono 135 avvocati, 25 medici, conti in banca, vi sono 6 o 7 milionari, scrive, e anche le star dell'epoca, perché cita il maestro Giuseppe Verdi, Petruccelli conclude tranchant. Non si dirà per certo giammai che il nostro è un Parlamento democratico. Qui c'è di tutto, il popolo eccetto. C'è di tutto, ma mancano appunto i rappresentanti dei veri, della classe popolare, dell'Italia vera e propria. E il popolo già allora mostrava, va detto, qualche insofferenza per i privilegi della politica. Tutto questo in un volume di 150 anni fa, poco meno di 150 anni fa, che ora tornerà in libreria. L'autore, un giornalista della Italia appena diventata unita. Allora, visto che parliamo di libri, naturalmente vi ricordo che oggi, come ogni domenica, già da diverse settimane, trovate con Il Sole 24 Ore i racconti d'autore. Questa volta il racconto è quello di Henry James e il titolo del racconto è La bestia nella giungla. È in vendita con Il Sole 24 Ore. Ma io vorrei passare adesso dai libri a tornare invece alle riviste, perché questo mese ha debuttato in edicola BBC Science, che è la versione, diciamo, italiana di un mensile già diffuso all'estero. E infatti Giuseppe Brillante, che è il curatore dell'edizione italiana, ci spiega che la prestigiosa e autorevole rivista di divulgazione della BBC ha ora la sua versione italiana, così scrive appunto il curatore Brillante. Brillante è il suo cognome, chiedo scusa, non è un aggettivo riferito al suo modo di scrivere. Molti articoli saranno integralmente tradotti, spiega. Una parte sarà invece fatta dai nostri giornalisti. E cosa contiene questa rivista? Beh, vi posso dire naturalmente che contiene molte bellissime fotografie, ma anche una serie di spunti di quelli che sempre un po' ci interessano di scienza e di vita quotidiana. Ad esempio, uno molto carino è dedicato al sonno agitato, perché non è poi così difficile che capiti di fare delle cose nel sonno e di non ricordarsene, dal sonnambulismo. Ma c'è anche gente, riferiscono proprio nelle pagine di BBC Science, nel primo numero di BBC Science, c'è anche gente che si mette a guidare la macchina dormendo e magari guida per diversi chilometri. Per non parlare poi del caso, appunto citato anche nell'editoriale del direttore, di un signore che si è reso colpevole di uxoricidio, cioè insomma nel sonno ha ucciso la moglie. Questo decisamente si può definire davvero un sonno agitato. Tutto questo sul primo numero di BBC Science da questo mese, da ottobre, in edicola. E veste rinnovata anche per un altro mensile storico, mensile ben noto, si chiama GQ, GQ Italia. Anche qui una veste completamente rinnovata, rinfrescata nella, pur conservando insomma l'impatto tradizionale di questo mensile. Qui vi segnalo un articolo che abbiamo trovato molto divertente, Cisternino Express, cioè qualcuno si è messo a provare a fare l'Italia, percorrere l'Italia da nord a sud con l'autostop, per capire se ancora la gente si fida a dare un passaggio con l'autostop oppure la diffidenza è ormai così aumentata che diventa difficile muoversi in questo modo. I dati che accompagnano l'articolo è di Angelo Pannofino, dice: vorrevo andare da Milano fino a Cisternino in Puglia in autostop e viaggiando solo sulle statali. Naturalmente le domande erano: nel 2011 è ancora possibile spostarsi in questo modo? Che Italia vedremo? Si fermerà qualcuno? Ma i colleghi non erano particolarmente ottimisti. I dati sembrano confermare questa diffidenza complessiva, perché vediamo che nel primo giorno sono riusciti a percorrere 68 chilometri, nel secondo molti di più, 275, ma poi la media è già subito calata, al terzo e quarto giorno 135 e 177 chilometri. Un passaggio un po' più lungo di 222 chilometri ha consentito al quinto giorno finalmente di completare questa particolare traversata d'Italia. Tutto questo su GQ nel numero di ottobre in edicola. La stagione è propizia, siamo a ottobre, allora parliamo di vendemmia. Capisco che l'orario forse non è ancora quello più adatto per parlare di vino, però di vendemmia parla Giusy Galimberti in due pagine, tra le primissime di Famiglia Cristiana di questa settimana. Ci informa che la vendemmia 2011 ci darà poco vino, ma ottimo. L'annata non è stata delle più generose a causa del caldo eccessivo e della siccità, ma la qualità sarà elevata. Si spiega poi appunto in queste due pagine che le previsioni non sono rosee. Secondo Fedagri la produzione scenderà per la prima volta sotto la soglia dei 41 milioni di ettolitri, e questo vorrebbe dire una riduzione del 13% sul 2010. Questa riduzione è riconducibile al clima, perché ha fatto molto caldo, ce ne siamo accorti. Caldo eccessivo e siccità hanno infatti provocato una resa più bassa della media in Piemonte, in Veneto, in Friuli, in Emilia-Romagna, in Toscana, in Umbria e anche in Sicilia. E poi ci sono state le grandinate per la Lombardia e l'Alto Adige. Allora tutto questo, secondo il presidente di Federvini, Lamberto Vallarino Gancia, dovrà portarci poco vino, ma di qualità. Si è dovuto intervenire vendemmiando 20-30 giorni prima del consueto, perché la maturazione dell'uva era insolita, ma si produrranno comunque vini di pregio e, per esempio, questa l'informazione, gli spumanti saranno ottimi. Questa mi sembra una buona notizia, approssimandosi poi il periodo delle feste. Viene chiesto sempre a Vallarino Gancia quali sono i vini che vanno di più oggi in Italia. Ci informa che le bollicine sono di moda e stanno tornando anche i rosé, un tipo di vino molto amato in Francia. Tutto questo su Famiglia Cristiana di questa settimana. E allora cambiamo invece completamente argomento, passando ad un'altra testata, in questo caso Vita settimanale, dedicato come sapete al no profit. In copertina su Vita il business dei profughi. Perché? Perché ogni giorno apprendiamo che l'Italia spende 1.200.000 euro per l'emergenza in Nord Africa. Questi fondi vengono usati però soprattutto per parcheggiare migliaia di immigrati in alberghi ghetto, ma non per sostenere progetti di inclusione sociale. Questa l'indicazione che dà Vita nel suo numero. E poi c'è un'altra indicazione invece nelle pagine interne, l'aumento delle mamme single. Fino a pochi anni fa, spiega Benedetta Verrini nell'attacco del suo articolo, entrava tutto, statisticamente parlando, nel calderone delle cosiddette ragazze madri. Ora la conseguenza di un trend europeo che tocca anche ormai l'Italia fa sì che quella delle mamme single, soprattutto single di ritorno per effetto di una separazione, è una categoria sociologica che non può più essere considerata residuale nel nostro paese. Ci sono stati dei dati Istat, stiamo anche in questo periodo di censimento, anzi proprio da oggi, dal 9 ottobre comincia la fase di riconsegna. E con questa indicazione mi fa cenno Carmelo Lauricella dall'altra parte del vetro e Anita Panizza, mi fanno cenno che il nostro tempo si è esaurito. Allora io vi saluto, vi ricordo che se volete scriverci potete farlo a magazine24@radio24.it e sul nostro sito www.radio24.it potete riascoltare questa trasmissione e tutte le altre trasmissioni di Radio 24. Buona domenica a tutti.